385. Fagioli sgranati per contorno al lesso. Fagioli sgranati grammi 300, carne secca intera grammi 30, acqua decilitri 2, olio cucchiaiate 4, una sciocchettina di 4-5 foglie di salvia, sale e pepe bianco. Mettete al fuoco i fagioli con tutti gli ingredienti suddetti, fateli bollire ad agio e scuoteteli spesso. Levate la salvia e la carne secca e serviteli. È un contorno che potrà bastare per 4 persone.